Non è raro che una mamma non porti a termine la propria gravidanza, come non è raro che un neonato o un piccolo bambino muoiano. Dal punto di vista umano, tutto rientra nella norma e, a dire il vero, nel XX e XXI secolo la scienza ha drasticamente ridotto queste mortalità. Ma dal punto religioso rimane un interrogativo che a volte angoscia sia le mamme sia tante altre persone. Dove andranno questi esseri dopo la loro morte? Poiché nell'aldilà l'esistenza continua e poiché due sono i luoghi destinati ai morti, cioè una beatitudine eterna e una condanna eterna, in quali di questi luoghi vanno gli esseri che vengono abortiti, i neonati e i piccoli bambini? Prima di rispondere, occorre spiegare che, per quanto mi riguarda, ritengo l'aborto un essere vivente al pari di un neonato, anche se la formazione del corpo non era completata perché nel momento che il gamete maschile si incontra con il gamete femminile, sorge già una vita che va sviluppandosi fino alla formazione di un corpo perfetto, se non vi sono intralci nella formazione. Come una pianta. Una quercia, prima di crescere alta e robusta, inizia con l'essere un piccolissimo stelo. Uno stelo che si può già chiamare a tutti gli effetti quercia. Non è alta, né robusta, e neppure produce querce. Ma quercia rimane, sia che la si faccia morire a un giorno, a un anno, 10 anni o 100 anni di vita. Perciò la risposta che si dà per il neonato o per un piccolo bambino vale anche per l'aborto, una risposta questa in grado di consolare tutte quelle mamme che non hanno portato o non portano a termine la loro desiderata gravidanza. Ma non certamente consolatrice per chi con un atto di volontà ha voluto interrompere la gravidanza. Però, chi ha accettato il sacrificio di Cristo? Quale rimedio per il perdono di tutti i peccati passati, presenti e futuri può e deve trovare la profonda pace che procura il totale perdono di Dio? Se qualche mamma, o papà come complice, vive ancora con dei sensi di colpa, significa che la sua fede in Cristo è solo teorica. E solo con quella pace che Dio procura può rendersi conto della qualità della sua fede. In questo inizio del XXI secolo molte donne ritengono un diritto il fare del loro corpo quello che vogliono. Ma mi è molto difficile conciliare questa posizione con quella di Dio. Quando leggo che la moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito, 1 Cor 7.4, ritengo non vera l'autorità femminile di avere sovrana disposizione del suo corpo. E se il corpo della moglie è condizionato dal marito, quanto più è sottoposto a Dio, quale creatore, quando dice non uccidere? Nella Bibbia non abbiamo molte notizie in merito al destino eterno di un aborto, né di un neonato o di un piccolo fanciullo. Perciò, per rispondere, occorre ancora una volta usare una delle tante regole per interpretare e capire la Scrittura, usare i chiari principi di Dio. Infatti, ad esempio, la Bibbia non parla della tecnologia di oggi, se è lecito avere un televisore, se è lecito fumare o altro, ma sapendo che Dio ordina di non amare nulla in questo mondo più di Lui e del suo regno, sapendo che siamo responsabili di mantenere il nostro corpo in salute, le risposte si trovano già implicite nei comandamenti di Dio. Così, il primo principio sul quale non vi sono dubbi è che nessuno andrà in perdizione. O sarà salvato per una distrazione di Dio, ma tutti saranno giudicati sulla base della conoscenza ricevuta in merito in considerazione al loro rifiuto o meno della salvezza offerta da Dio. Gesù lo disse molto chiaramente: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. GV 3.19. Questa sentenza di Gesù deve essere presa sul serio ed esaminata attentamente. Con l'espressione il giudizio è questo, Gesù sta dichiarando che, al di là di quanto gli uomini dicono o pensano in merito al destino eterno, la condanna finale non ricadrà su di loro perché non hanno amato la luce, né perché non hanno desiderato il bene e neppure perché non si sono schierati a favore della verità. Non sarà per niente di tutto questo. La ragione per cui alla fine gli uomini andranno in perdizione nei tormenti eterni sarà che avranno amato la luce, cioè il bene, ma meno delle tenebre e della verità. Questo è il punto. Alcune versioni della Bibbia, al posto del verbo amare, hanno messo il verbo scegliere. mettendo in evidenza che la ragione della loro condanna sta nell'avere scelto di più le tenebre, cioè il male, che la luce, cioè il bene. Questo vuol dire che alla condanna eterna andranno delle persone per bene, persone religiose, persone moraliste, le quali, alla fine, quando si trattava di scegliere il bene al posto del male, non si sono schierati a favore del bene. Amare le tenebre più della luce vuol dire non avere il coraggio di schierarsi a favore di Cristo, quando tutti sono contro, e per questo Gesù disse: «Or io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio, ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio». ILC 12.89. Il riconoscere Gesù non vuol dire solo di testimoniare che Lui è il Figlio di Dio, ma dichiarare che Lui è l'unico Salvatore e Signore della propria vita, l'unico al quale rivolgere preghiere e il culto. Gesù ha messo in evidenza che la destinazione dell'aldilà è condizionata dalla posizione che prendiamo ora su questa terra. È evidente che un aborto, un neonato o un piccolo fanciullo non sono in grado di scegliere o di prendere una decisione nei confronti di ciò che è giusto o sbagliato. Come saranno allora giudicati tutti costoro impossibilitati a scegliere, e così anche le persone incapaci di intendere, volere per esempio i dementi dalla nascita? Per questa risposta può venire in aiuto ciò che disse Gesù in merito ai bambini: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro, nei cieli, vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. IMT 18.1011 e certamente saggio non costruire nessuna dottrina su di una sola affermazione della Scrittura, per non commettere lo stesso errore del cattolicesimo romano riguardo alla successione apostolica. Ma poiché la perdizione dell'uomo è una condizione dalla nascita, se Gesù è venuto a salvare ciò che era perduto, significa che chi è privo della propria volontà è automaticamente redento, cioè salvato. Infatti, se tutto il creato un giorno sarà liberato dalla corruzione della schiavitù, cioè il redento di RM8, questo è quanto si comprende dalle Scritture. Un simile discorso certamente non ha valore per chi crede che Dio abbia già predestinato alcuni a salvezza e altri a perdizione. Ma poiché la volontà dell'uomo ha la sua parte, tutti coloro in grado di volere e di intendere sono chiamati a scegliere in base a quella porzione di luce che Dio dona loro. Infatti, secondo la Scrittura, non tutti hanno avuto e hanno occasione di conoscere il Vangelo, e questo spiega perché l'Apostolo Paolo vede due categorie di persone che saranno condannate, cioè coloro che non conoscono Dio e coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. 2 Tess 1.8. Nel dire coloro che non conoscono Dio, Paolo si riferisce a chi rifiuta la testimonianza di Dio offerta dal creato. Rom 1.1832. In effetti, anche se il creato non ha favella, né parole, e per quanto la sua voce non si ode, ugualmente esso testimonia l'esistenza di un creatore. Salmo 19, 1-4. E chiunque non abbia preconcetti giunge alla conclusione quanto indegno sia che l'uomo esista assieme al creato, SL 8.37, a meno che non venga a sapere che esso è il capolavoro di Dio fatto a sua immagine e somiglianza, Gen 1.26. Vi è un'espressione dell'Apostolo Paolo utile a gettare luce sulla nostra ricerca, e si trova nella lettera ai Romani, al paragrafo in cui egli descrive il rapporto della legge in relazione al peccato. Secondo il messaggio di Dio, la legge mette in evidenza le nostre trasgressioni, sia che ne siamo coscienti oppure no. Perciò il comandamento che avrebbe dovuto dare la vita eterna a chi lo avesse osservato, in realtà dava la condanna eterna. Paolo spiega questo per i religiosi praticanti, i quali pensavano di ottenere la salvezza tramite l'osservanza della legge. Poi aggiunge una riflessione che fa il caso nostro. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. RM 7.9. Con questo discorso Paolo fa notare che quando era nell'incoscienza non si trovava sotto la legge. Non poteva esserlo poiché era responsabile in quel periodo, perciò viveva. Questo verbo non può significare esistere. Infatti, poco dopo l'Apostolo parla di morte, non intendendo una cessazione della vita fisica, ma in senso spirituale. Quindi il vivere per Paolo era un fattore spirituale, volendo significare che non era condannato. Perciò il neonato di fronte alla legge, e perciò di fronte a Dio, fino ad una certa età vive nell'ambito della redenzione non essendo colpevole di sua propria volontà. Poi nel momento in cui può volere intendere entra nella sfera della perdizione, quello che può essere inteso come un peccato che non mena a morte. 1 Giovanni 5.17 e da quel momento ha bisogno di fare una scelta di fede in Cristo per ottenere la vita eterna. Una conclusione del genere sembra stridere con il messaggio del Vangelo, il quale insegna che tutti nasciamo peccatori, che tutti siamo destinati alla perdizione eterna e che solo con una morte, se un aborto, un neonato o una persona nata non capace di intendere e volere non realizzano una nuova nascita, come potranno essere salvati? Una domanda del genere non è saggia, perché il piano di Dio per salvare l'uomo è indirizzato a chi è in grado di intendere e di volere e chiedersi come Dio possa, equivale a limitare l'onnipotenza di Dio. Dio detta le regole, ma senza esserne vincolato, come quando Maria restò incinta senza l'intervento dell'uomo. Il punto è se Gesù ha redento con il suo sacrificio tutto ciò che non ha volontà, e poiché i salvati e la creazione aspettano con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, Roma 8.19, ci si aspetta di vedere nell'eternità e per l'eternità le grandi cose di Dio, tra i quali gli aborti e i neonati, morti prematuramente. Aprile 2005. Ellero.